Allora, il contratto in questo caso qua è un accordo che hanno siglato insieme alle confederazioni CGL, CISL e UIL. Ci sono appunto diverse tipologie di ore a disposizione che sono appunto 10, 20 o 30 ore a seconda delle esigenze dell'azienda o a seconda anche del lavoratore, perché comunque va sottolineato che tanti lavoratori in forza alle piattaforme, tanti fanno un secondo lavoro come il sottoscritto. E quindi optano volentieri magari per un range di 10 o 20 ore alla settimana. Ok, perfetto. E va bene, invece poi volevamo chiederti, insomma, il contesto più generale che ti ha portato al licenziamento e anche se hai voglia di dirci due parole sullo sciopero generale che c'è stato il 22 gennaio, anche perché poi il tuo licenziamento è stato ufficializzato 4 giorni dopo da questa piattaforma. Hanno evitato, insomma, di farlo prima, se la sono studiata un po' bene, quindi volevamo un po' capire il perché sei stato licenziato. Allora, la premessa è che io sono un rider in forza alla piattaforma di Just Eat su Monza e precedentemente allo sciopero del 22, che era uno sciopero a livello nazionale, c'è stato uno sciopero indetto dal sottoscritto il 29 dicembre. E lo sciopero si è svolto con tutti i presupposti di uno sciopero, quindi informando l'azienda che c'era un'agitazione sindacale in corso e si è svolto davanti al McDonald's di Corso Milano, dove abbiamo presidiato appunto e coinvolto altri rider in forza ad altre piattaforme ad aderire appunto a convergere sull'idea e sul principio che oggi più che mai serve un reale contratto per tutti, non più a cottimo ma legato al CCNL che prevede tutta una serie di remunerazioni fissate appunto dal CCNL logistica, quindi le indennità di tredicesima e quattordicesima separate, insomma tutto quello che è in sé il contratto, ecco, diciamo così. Successivamente poi abbiamo appunto aderito ad un altro sciopero che è quello del 22, ma il reale presupposto di licenziamento posto in essere dall'azienda è dato dal fatto del 29, dove loro dicono che io ho creato insieme ai colleghi un disagio. Detto ciò, faccio una dovuta precisazione perché l'azienda Just Eat non ha mai, mai provveduto se non a inviarmi una mail, ad ottemperare quelle che sono le disposizioni di legge in materia, quindi a inviarmi una raccomandata. Io non ho mai ricevuto nulla. Ho comunque risposto alla mail perché anche in questo caso c'è un vizio di forma. Io ho ricevuto sì la mail dove loro mi inviavano la contestazione, ma realmente io potevo aprire solo un file che era appunto il file dove loro mi dicevano le abbiamo contestato, ma realmente la contestazione in essere, cioè materialmente proprio quello che è il modo per definire una pratica scorretta di lavoratore, io non l'ho mai potuta aprire, l'ho aperta successivamente insieme all'avvocato, ovviamente all'impugnazione del licenziamento che è avvenuto il 26 gennaio di quest'anno. Ci sono tutta una serie di vizi di forma ai danni dello scrivente, in primis il fatto che io lo sono diventato un delegato RSA COBAS, perché va sottolineato questo, e quindi COBAS non è firmatario di quell'accordo che prevede un rimborso chilometrico, perché questi dati vanno sottolineati. I rider che lavorano in scooter, in forza alla piattaforma di Just Eat, secondo l'accordo siglato dai confederali, quindi da CISL, UIL e CGL, vengono remunerati 15 centesimi lordi a chilometro, quando realmente siamo di fronte a un costo della benzina pari a 1,80 euro. Se poi io lavoro nel festivo piuttosto che nel feriale, insomma, ci sono tutta una serie di accordi al ribasso che portano di fatto poi a essere classificati come dei veri poveri, perché ci negano tutto quello che è il CCNL. E stiamo sempre più finendo in povertà assoluta perché un rider che come il sottoscritto lavora con uno scooter con una cilindrata 300 ha un costo fisso di 200-300 euro, anche perché le piattaforme, complice appunto la sottoscrizione di questo contratto che prevede appunto che tu metta a disposizione il tuo scooter, quindi tra altre cose va aperta la parentesi del rischio d'impresa che accade carico del lavoratore, sostanzialmente noi andiamo a perdere il 50% del nostro introito, quantomeno noi rider in scooter. E quindi sostanzialmente stiamo cercando di fare un po' di scioperi, ovviamente con tutta una serie di, appunto, di passatemi il termine, di nefandezze poste soprattutto nei miei confronti, che è stato poi quello di licenziarmi. Ok, volevo farti un'altra domanda riguardo con questa situazione che si è creata il 29 dicembre e poi in seguito, no, il tuo licenziamento. Volevo sapere se si erano... se eri riuscito un po' a legare anche con altri rider e se appunto si sono riusciti a creare delle prospettive di lotta per il futuro e se sì, su quale rivendicazioni, insomma, un po' già me le hai dette, però volevo capire se avevate in programma anche qualcos'altro in futuro oltre alla tua battaglia legale, insomma, per eventualmente farti riassumere o non lo so, insomma. Allora, purtroppo ho avuto e ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di tanti rider, sia in Forza Monza, sia in Forza Milano, in Forza anche comunque ad altre città, di solidarietà, perché ovviamente la notizia si è diffusa di questo immotivato licenziamento. Realmente però purtroppo va sottolineato che c'è una totale mancanza di coesione ancora tra di noi, anche perché questo loro modo operandi ha creato, a mio avviso, un po' di timore, un po' di paure che già probabilmente c'erano e ci sono ancora, ma ovviamente ha creato, e ripeto, queste paure. Quindi sì, tanti messaggi, ci dispiace, siamo con te, ma realmente non c'è una coesione, un'adesione ad aderire, a chiedere, a fare perché mi abbiano licenziato. Con Alessandro, che è il mio coordinatore, abbiamo provato ad andare all'SP di Monza, quindi allo starting point, a cercare di trovare degli appoggi anche con i rider per poi finalizzare eventuali scioperi, ma è finita lì, insomma, sostanzialmente, ecco. Ok, va benissimo, dai, grazie. Ti ringraziamo della disponibilità e magari ci risentiamo un po' più in là per se hai voglia, per sapere insomma come sta andando questa tua battaglia a questo punto personale. Sì. Ma speriamo che si riesca anche ad allargare agli altri lavoratori e alle altre lavoratrici, agli altri rider, per quanto riguarda, insomma, delle rivendicazioni minime, cioè non è che si sta chiedendo tanto di più, ma di rispettare i diritti minimi, insomma, dei lavoratori. Ti ringraziamo e ti salutiamo. Guarda, sì, vai. Guarda, l'ultima cosa e poi vi lascio. Innanzitutto vi ringrazio assolutamente per lo spazio che mi avete dedicato. Volevo assolutamente ringraziare Alessandro, che è il mio coordinatore COBAS, che comunque si è adoperato in questi giorni a farmi sentire comunque il suo conforto e tutta comunque l'unione che c'è nei COBAS, perché effettivamente stiamo cercando solo i COBAS, non perché io sia COBAS, ma ho trovato veramente in loro un punto di forza per andare avanti. Anche oggi mi hanno chiamato, mi hanno detto: Marco, mi raccomando, non mollare, anche perché sai benissimo di avere pienamente ragione. E la cosa che disgusta è appunto che anche oggi stesso l'avvocato mi ha contattato, mi ha detto che questi qua di Just Eat non hanno neanche risposto alla missiva di impugnazione del licenziamento. Fanno orecchie da mercante, come tipico, sì, dei padroni, sì, insomma. Sì, la cosa disgustosa è proprio questo modus operandi. E poi, come ho detto e ripeto, il totale disinteresse di tanti colleghi che pensano di essere immuni da vari eventuali e che si adattano appunto a circostanze lavorative che lasciano il tempo che trovano, perché comunque sono questo lavoro da anni, io mi sono sempre battuto, questo è un lavoro vero e proprio, tanti l'hanno definito un lavoretto, ma non è un lavoretto. Un lavoro vero e proprio dove si rischia tutti i giorni la propria vita, perché comunque abbiamo avuto negli anni tantissimi incidenti, non ultimo quello di un paio di anni fa dove un rider in forza, adesso non mi ricordo quale piattaforma, ha perso una gamba sotto un tram o comunque tutte e due, adesso non mi ricordo se era solo un arto o tutte e due, però è comunque tutto quello che sta accadendo, complice poi anche il precedente contratto firmato da UGL, sono proprio nefandezze e danni continuamente perpetrati agli anni del singolo, cioè una cosa vergognosa. Va bene, dai, grazie mille, noi ti ringraziamo per la disponibilità e ci sentiamo prossimamente. Va bene, grazie a te. Ciao. A presto, ciao ciao ciao. Ciao, grazie mille, ciao. Allora, abbiamo sentito il compagno Ryder che appunto è stato licenziato da Just Eat per aver organizzato una manifestazione sindacale. E niente, ora ci sentiamo un po' di musica, ci sentiamo i Turnstile, prendiamo due pezzi che sono estratti dal loro nuovo CD Glow On. Questi due pezzi nello specifico sono No Surprise e Mystery, e in realtà li riportiamo qui attaccati come loro l'hanno proposti nel loro EP di lancio del CD quest'estate, che si chiama Turnstile Love Connection. Ci sentiamo No Surprise e Mystery. Look around, is it windows or a mirror that you're looking at? Underground, we're swinging and we're missing with the lights off. And though it comes as no surprise to me, if you don't want to look inside of me, you really gotta see it live to get it. Allora, torniamo in diretta. Questi erano i Tenia con Quel giorno. Il pezzo è preso dal loro CD Altrove. Abbiamo messo un pezzo dei Tenia perché è il nuovo gruppo, neonato gruppo punk hardcore milanese. Questa è la loro ultima uscita. All'interno di Cronache di Regime, appunto, volevamo dedicare anche uno spazio alle nuove uscite, ai nuovi CD dei gruppi. E per iniziare abbiamo appunto scelto un gruppo milanese, nuovo sì, ma... che insomma è fatto da tanti componenti storici, tra virgolette, della scena milanese. Ora proviamo a chiamare uno dei componenti e ci facciamo due chiacchierate con lui, così ci spiega meglio qualcosa riguardo al CD e anche riguardo alla scena musicale, quello che è successo ieri al Boccaccio. Scusate, sabato. Ciao, pronto, ci senti? Sì, vi sento. Ok, ciao. Come va? Tutto bene? Benvenuto a Cronache di Regime. Ciao, grazie, sì, tutto bene. Allora, sono niente. Molto contento di poter essere qui. Noi abbiamo sentito il pezzo che apre il vostro nuovo CD Altrove, il pezzo si chiama Quel giorno, e niente, appunto, volevamo chiederti come nasce il gruppo, il perché dell'esigenza appunto di far uscire questo CD e queste tracce. Allora, guarda, il gruppo nasce in realtà già più di 5 anni fa dall'incontro di me e Roberto, il batterista. Innanzitutto volevamo fare un duo all'inizio, avevamo pensato di fare un duo un po' fuori dagli schemi dell'hardcore, magari non troppo uguale agli altri gruppi. Poi in realtà ci siamo resi conto che ci mancava qualcosa e allora abbiamo iniziato a chiedere un po' agli amici se qualcuno aveva voglia di suonare la chitarra con noi. E la scelta è ricaduta in Nico, perché anche Nico, come Roberto, fa parte del collettivo di Transiti, di Via dei Transiti, il collettivo di T28, che gestiscono lo spazio occupato in zona Rovereto, Pasteur, e quindi loro normalmente tutti i giorni già si vedevano per parlare di politica, per fare politica dentro lo spazio, quindi da una cosa è nata un'altra e abbiamo subito preso alla chitarra Nico. E da qui anche con Alvise è successa praticamente la stessa cosa, perché praticamente Alvise ha iniziato a frequentare T28, lui veniva da un'altra realtà. E appena ci ha sentito suonare nella sala prove, ha detto: "Wow, ma vi serve la voce, vengo a provare con voi." Per lui è il suo primo gruppo, non aveva mai cantato in nessun altro gruppo, quindi è stato proprio un percorso di crescita praticamente dentro la saletta di T28, dentro lo spazio di T28, che ci ha portato a legare prima di tutto come compagni, poi come amici e anche come musicisti. E quindi il gruppo alla fine si è evoluto così e sente la necessità di parlare dei temi, di quelli che sono un po' le cose che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, quindi le discriminazioni varie, ma anche comunque il disco si chiama Altrove perché cioè, è per cercare di esplorare spazi in qualche altrove possibile, crearlo, immaginarlo, sapere che i nostri spazi occupati sono una specie di altrove, un posto che può farci esprimere, può farci portare a conoscere persone con cui abbiamo davvero tanta affinità e ci piace stare. Quindi questo è un po', diciamo, l'esigenza del disco. Che il disco comunque, scusami se ti correggo, è uscito in vinile e non in CD. Va bene, scusa l'errore. Non me l'avete ancora regalato per quello. Guarda, passa da T28 qualche sera che te lo regaliamo, il mercoledì sai che facciamo le prove, quando potete passare, per noi le prove sono come sempre aperte, siamo lì nella saletta. E quindi hai parlato comunque di una situazione totalmente autogestita, sia a livello di fare le prove, sia a livello comunque di registrazione. Questa è una prerogativa, insomma, che rappresenta la scena punk hardcore milanese da anni e soprattutto negli ultimi anni, anche se c'è stato un momento di bassa, diciamo che un periodo è stata una delle scene più prolifiche degli anni 2010, forse in Italia, e quindi non lo so, siccome tu sei un vecchiaccio, volevamo chiederti due parole sulla scena milanese più in generale, se hai voglia. Beh, sì, tu ormai noi ci conosciamo bene, abbiamo vissuto periodi davvero entusiasmanti sotto certi punti di vista, soprattutto nel punk hardcore qui a Milano e provincia. In questo momento, rispetto al passato, c'è un po'. Se guardiamo al pubblico, c'è sempre una forte risposta, perché ad esempio. Sabato è successo che dovevamo fare un concerto al Boccaccio, ma ci hanno bloccato tutte le vie di accesso allo spazio e quindi ci hanno praticamente non fatto entrare dentro il nostro spazio né per poter recuperare la strumentazione né per poter capire niente, non ci hanno fatto proprio avvicinare dicendo che non era possibile fare un concerto per motivi legati al Un Covid, ma in po' su, realtà scusa se ti interrompo, un po' sì. sulla falsariga di quello che era accaduto l'anno scorso per il falò di Sant'Antonio, sempre al Boccaccio Vecchio, Esattamente, prima dello sgombero di luglio. esattamente, Quindi è una esattamente sì, la mossa stessa cosa. che ha già messo in campo la questura di Monza e che ha riproposto in questo caso per un concerto, mentre poi a Sanremo magari fanno fare la mucchiata in generale. Vabbè, questa è una considerazione Eh così. sì, è una riflessione su cui noi come Boccaccio questa sera ci incontreremo a parlarne perché ovviamente non vogliamo lasciare questo non vogliamo. Più accettare questo tipo di provocazione da parte della questura e vogliamo dare una risposta forte questa volta in città, non solo dentro il nostro spazio, quindi magari stiamo pensando di poter organizzare delle iniziative in cui ci sarà bisogno del supporto e della solidarietà di tutte e di tutti, perché vogliamo proprio un po' far sentire la nostra voce e comunque appunto come ti dicevo. Cioè, anche parlando in termini più di coinvolgimento politico rispetto magari solo a quello che riguarda più la parte musicale, in questo momento è simile, si può fare un paragone, cioè mi spiego meglio. Noi viviamo un momento, ad esempio nella scena hardcore, in cui i concerti comunque quando li facciamo viene sempre un pozzo di gente, viene sempre tanta gente. Però abbiamo poca gente che organizza, nel senso che siamo comunque bene o Siamo sempre i male, soliti, più o meno. esatto, siamo bene o male gli stessi di 10 anni fa, tra di noi pure c'è chi si è stancato magari, quindi diciamo che in termini di. Allora, ci scusiamo perché è caduta la linea, ora proviamo subito a riconnetterci con il compagno. Prima puntata piena di problematiche tecniche, scusate ancora. Sì, scusa, è caduta la linea, perdonaci. Ah, ok, niente, niente, tranquillo. L'abbiamo recuperato No, ti subito. dicevo quindi, appunto, non so a che punto eri arrivato, ma ti dicevo appunto che abbiamo una potenza organizzativa, diciamo, un po' ridotta, un po' forse ridotta all'ossicino in questo momento, rispetto magari a 10-15 anni fa, ma comunque la risposta del pubblico è sempre molto forte. Quindi si spera, cioè, bisogna un po' interrogarsi, magari anche tra di noi che portiamo ancora avanti queste pratiche, su come poter fare per coinvolgere persone che abbiano voglia di portare avanti determinate pratiche in determinati modi, perché comunque si sente la necessità, si sente la voglia di farlo ed sarebbe un peccato chiuderci all'interno di, diciamo, le nostre bolle di spazi safe e non aprirci un po' rispetto a quello che può essere una proposta esterna. Quindi è questo un po' è l'esempio anche di quello che riguarda l'aspetto politico che stiamo attraversando, secondo me, negli spazi non solo a Milano, ma un po' anche forse in tutta Italia, quindi rispetto poi alle esperienze che conosco io. Ok, perfetto. Vabbè, ti faccio giusto un'ultima domanda riguardo come vuole andare avanti il gruppo. Appunto, per i prossimi concerti c'è un punto interrogativo perché almeno in Boccaccio la questura ha messo in campo questa disposizione, poi il concerto si è tenuto in Casa Brancaleone ugualmente la sera, quindi volevo capire come pensavate organizzarvi, se avete prossimi concerti in previsione. Se volete fare tour, live, state già pensando di registrare qualcos'altro, insomma, qualcosa che riguarda nello specifico il gruppo e poi ti salutiamo. Allora, guarda, sì, noi siamo alla ricerca di live. Stiamo cercando di organizzarci la prima data ufficiale col disco, perché ci sono arrivati i dischi soltanto un mesetto fa e ancora non siamo riusciti a tirarci in mezzo per organizzarci una bella serata di presentazione del disco. Quindi a breve vorremmo organizzare delle date di presentazione del disco, probabilmente ad aprile, con la possibilità di suonare all'aperto. In più il 2 aprile abbiamo una data confermata al Paso, ma comunque siamo disponibilissimi a sentirci con chiunque ci voglia fare suonare in giro per l'Italia, ci organizziamo anche fuori, chiunque si sta ascoltando e se ci vuole contattare, ci può sentire uno di noi. E quindi è questo, che adesso è difficile programmare dei tour. Noi stiamo provando per organizzarci per quest'estate, col fatto che abbiamo tanti agganci al sud Italia, quindi magari stiamo provando a pensare di fare delle date tra la Calabria, la Puglia e la Sicilia, però è davvero difficile riuscire ad avere delle persone che ti dicono sì, guarda, possiamo fare una programmazione che va da qui ai prossimi 6 mesi, 5 mesi, 3 mesi. Cioè, è proprio difficile trovare persone che ti danno questa conferma, questa disponibilità. Quindi siamo un po' bloccati per questo, nella possibilità di fare tour, perché comunque tutti lavoriamo, quindi dobbiamo incastrarci bene tra di noi anche, quindi è sempre difficile. Ok, perfetto, va bene. Una battuta, giusto? Se fate i concerti due al Paso, mi raccomando, non organizzate niente il 3 aprile perché ci sarà il presidio al Minorile al Beccaria, quindi niente matinee hardcore a Milano, magari facciamo una roba il venerdì. Va bene. Così facciamo che i punk portano la Ok. solidarietà e il conflitto anche insomma sotto le carceri e sotto il Minorile. Certo, lo teniamo presente. Va bene, dai, niente. Allora ti ringraziamo, grazie Cosimo, per l'intervista. Ci sentiamo prossimamente, magari. Dai, volentieri. E niente, dai, noi ti salutiamo e ci sentiamo altri due pezzi dei Tenia, sempre tratti dal CD Altrove. Ci sentiamo prima quella notte e poi Congiure. Allora, 20:42, sempre con cronache di regime in diretta da, da Milano, direttamente dalla casa Do It Yourself Autoproduzione. Ricordiamo Cronache di Regime, il nuovo programma di Malaradio, nuovo programma di Malaradio Milano. Sulle note di Gloria Gaynor di We Survive proviamo a dire, a citare tutte le iniziative che ci saranno prossimamente a Milano e dintorni. Se ce ne manca qualcuna, vi invitiamo per le prossime volte a mandarci una mail a cronachediregime@autistici.org oppure anche a scriverci in diretta via SMS o Telegram al 351 55 79 698. Ringraziamo in anticipo anche per la pazienza degli ascoltatori e l'ascoltatrice per gli innumerevoli problemi tecnici, ma prima puntata, prima diretta, logicamente qualcosina doveva andare storto. Speriamo che almeno nel podcast che poi caricheremo sul nostro sito malaradio.noblogs.org si senta, si sentirà meglio. Se andrete sul sito ci sarà, potete dare un'occhiata anche al blog di Cronache di Regime, dove inseriremo volta per volta, giorno per giorno, i vari argomenti che tratteremo in settimana. Allora, iniziamo con le iniziative. E intanto vogliamo dire al volo che stamattina c'è stato un presidio davanti alla prefettura dei Sicobas, anche perché c'era la Lamorgese che veniva a firmare l'assunzione di 500 nuovi sbirri per la città di Milano. Logicamente la zona presso Corso Monforte era totalmente militarizzata e poi i Sicobas si sono spostati in zona San Babila per fare una mezz'oretta di presidio, ma con tutti gli schieramenti delle forze dell'ordine ben preparati, quindi non c'è stata molta agibilità riguardo questa iniziativa. Invece domani, martedì 8, a Castellanza, in provincia di Varese, ci sarà un'iniziativa No Elcon alle 21 presso il Cinema Teatro Dante, dove si parlerà di questa nocività e i compagni e le compagne portano avanti questa lotta da anni, proveranno a rilanciare questa iniziativa domani sera. Poi invece ci spostiamo a giovedì, già che ci siamo rilanciamo degli appuntamenti fissi a Milano che ci sono, li rilanciamo solo per la prima volta, poi durante le prossime iniziative non lo faremo, durante le prossime puntate non lo faremo più. Il mercoledì, per chi volesse giocare a rugby, ci sono gli allenamenti al parco, gli allenamenti dal basso di rugby al parco Teramo in zona Barona. Ogni mercoledì ritrova alle 5:30, alle 6:15/6 puntuali in campo, ci alleniamo con la prospettiva di organizzare una giornata di sport popolare il 19 marzo. Invece tutti i giovedì dalle ore 18 in poi presso l'occupazione dei Pirati ci sarà il Barbones, che è un bar con apertura ogni giovedì, loro specificano no musica, no techno e no piazza, e alle 11 si chiude si chiude il posto. E poi invece andiamo a venerdì 11, dalle 19 ci sarà un aperitivo benefit presso il Cuore in Gola per i prigionieri e le prigioniere, musica, birrette, cene e abbeveraggi, insomma. E passiamo a sabato, dove ci sono dove c'è l'unica iniziativa che sono riuscito a trovare oggi, è la proiezione che tra l'altro organizziamo con i ragazzi del rugby, la proiezione del Sei Nazioni presso lo spazio Revdar in via Digione 7, appunto il 12 febbraio dalle 3 in poi ci si vedrà alle 15:15 Galles-Scozia e poi a seguire Francia-Irlanda. Ricordiamo che le birre alla spina andranno benefit per i prigionieri e le prigioniere incarcerati. Invece passiamo a domenica, dove ci sono tutta una serie di iniziative. Iniziamo con Coclea in Boccaccio dalle 14:30 in poi, questa iniziativa diciamo sulla moda lente, come ritrovarla, quindi ci sarà un free shop dove puoi prendere, portare e scambiarti i vestiti, e poi alle 17:45 ci sarà la proiezione di The True Cost, questo film insomma sulla sulla moda, sul fashion, un po' in ottica critica. E poi tè biscotti per chiacchierare insieme insomma sulla proiezione, sulla giornata che è stata organizzata. Sempre il 13 febbraio alle 16 in Viale Monza 255 presso l'Auletta Studio Autogestita, ci sarà un incontro pubblico contro l'alternanza scuola-lavoro, come dicevamo prima con uno degli studenti che ha occupato i severi correnti. Il 28 gennaio a Milano c'è stato anche questo presidio a Missori contro l'alternanza scuola-lavoro, il ricordo di Lorenzo, questo ragazzo che a Udine appunto è morto mentre andava a scuola, in realtà è morto mentre veniva sfruttato dai padroni, la loro scuola la chiamano lavoro, ma in realtà è solo sfruttamento. Ricordiamo l'appuntamento di domenica 13 alle 16. Invece ora un po' di autopubblicità, perché domenica 13 dalle 18 ci sarà questa iniziativa che è organizzata da i mercoledì del Micene insieme alla redazione di Malaradio, dove si parlerà di lotta anticarceraria e la presentazione della Cassa di Resistenza, e dove verrà anche presentato il progetto della nuova radio di Milano, appunto Malaradio, lì a Micene, presso via, in via Giuseppe Pinelli 4. Dopo ci sentiamo anche lo spottino di presentazione, insomma, dell'iniziativa, così ce lo ricordiamo bene tutti e tutte, quindi allo spazio in via Micene, domenica alle 6. Già che ci siamo, diamo un po' di appuntamenti futuri che ci paiono abbastanza importanti da ricordare. Martedì 15 sarà il giorno della Cassazione per i fatti del 15 ottobre 2011, 11 anni fa, per chi non se lo ricorda. A Roma si è vissuta un'aria diversa e si è respirato un po' di libertà, si è attaccato lo Stato e le sue strutture, i suoi palazzi, o almeno ci si è provato, comunque ci siamo un po' divertiti e un po' di persone però stanno pagando riguardo questa manifestazione. Quindi martedì 15 ci sarà una presenza solidale davanti alla Cassazione dalle 9:30 di mattina. Il 19 febbraio invece a Milano ci sarà una manifestazione degli studenti organizzata dagli studenti contro il Green Pass, si chiama "I tuoi diritti stanno per scadere", il concentramento dovrebbe essere in piazza Leonardo da Vinci e si dovrebbe arrivare fino davanti all'Università Statale a Milano. Il 26, comunque preannunciamo che parleremo settimana prossima con qualcuno o qualcuna dei ragazzi che stanno provando a organizzare questa manifestazione. La settimana ancora successiva, il 26 febbraio, ci sarà il corteo contro il Green Pass ed oltre a Busto Arsizio. Ci fermiamo qui nella descrizione perché anche di questo corteo parleremo nelle prossime puntate. Invece rilanciamo l'appuntamento, anche se è un po' in là, però è importante a salvarsi la data, save the date. Il 3 aprile ci sarà il presidio sotto al minorile al Beccaria, e questa data, invece, questa iniziativa la ricorderemo sempre, perché è importante ricordarsi che ci sono tante persone in carcere, ma ci sono anche reclusi minorenni che lo Stato tiene in ostaggio. Va bene, ci abbiamo provato, questa prima puntata è più o meno andata, anche se ci sono stati un sacco, scusate ancora, di problemi tecnici. Per la prossima dovrebbe andare meglio, e dalla prossima vi annunciamo che ci trasferiamo in uno spazio vero a fare la puntata, ci ospiterà l'associazione Revdar in via Digione 7, e quindi le prossime dirette fisse di Malaradio, quindi il podcast di Radio Fango che va in replica il lunedì, perché prima logicamente va in onda su Radio Onda d'Urto il giovedì già da anni. Siamo arrivati dopo e ci concedono il podcast, quindi Radio Fango dalle 18 e poi Cronache di Regime dalle 19 andrà in onda dallo spazio Revdar qui a Milano in via Digione, una traversa di via Washington. Bene, noi vi ringraziamo per l'ascolto, ora ci sentiamo lo spottino della cena e chiudiamo con un pezzo dei The Streets, Let's Push Things Forward, tratto dal loro singolo Original Pirate Material. Ciao a tutti, ciao a tutte, vi auguriamo una buona serata e restate sulle frequenze di Malaradio per risintonizzatevi lunedì prossimo alle 18 per Radio Fango, alle 19 per Cronache di Regime su Malaradio. Ciao a tutti e ciao a tutte. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Ritorniamo con una nuova cena di Malaradio. Domenica 13 febbraio allo spazio Micene. Micena. Cominciamo alle 18 con un aperitivo a cura di Mercoledì di Micene, che presentano anche la Cassa di Resistenza. A seguire, cena dalle ghiotte ricette. Siete tutte e tutti invitati in via Giuseppe Pinelli 4, ex via Micene. Per informazioni Facebook Libero Spazio o Facebook Malaradio. This ain't the down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type. This ain't your archetypal street sound. Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round. And then to the underground. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. Push things forward. As we progress to the checkpoint, I wholeheartedly agree with your viewpoint, but this ain't your typical garage joint. I make points which hold significance. That ain't a bag, it's a shipment. This ain't a track, it's a movement. I got the settlement. My frequencies are transient and resonate your eardrums. I make bangers, not anthems. Leave that to the artful dodger. The broad-shouldered 51% shareholder. You won't find us on Alta Vista. Cult classic, not bestseller. You're gonna need more power. Plug in the three phase and the generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots. The plot thickens. Put on your mittens for these sub-zero conditions. But remember I'm just spitting. Remember I'm just spitting. Once bitten, forever smitten. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Spit jewels like Eastern riches, junkie fixes. Around here we say birds, not as. London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luck, so I know this dodgy f***ing the duck. So it's just another show flick from your local city poet. Case you geezers don't know it, let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Calling all maulers, backstreet brawlers, corner shop crawlers. Victory's flawless. Love us or hate us, but don't slate us. Don't conform to formulas. Pop genres are shut. Sharp darts, double dutch. Park cars, troubles are much with more bud. Let's push things forward.